Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre, alcune rapide informazioni di servizio alle quali però tengo molto. La prima è la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it, lì che potete scrivere per segnalare i vostri casi. Mi raccomando che non siano strettamente personali, perché quelli non li prendo neppure in considerazione, ma devono essere, come spesso amo ripetere, esemplificativi di una platea più ampia. La seconda informazione è il mio blog, ormai lo conoscete, ma mi piace che continuate a frequentarlo e a suggerirmi anche proposte e lasciare commenti. Si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. L'ultima informazione: perdete delle puntate? Non c'è problema, andate sul nostro sito www.radio24.it e scaricate le puntate di vostro interesse, lo trovate nell'archivio di Un Abuso al Giorno. Allora, alcuni giorni fa la Guardia di Finanza di Roma, con un'operazione che è stata chiamata Augusto Imperatore, di cui probabilmente avrete letto sui giornali o avrete visto anche i servizi in TV, ha compiuto una operazione di straordinario interesse, perché è riuscito a reperire, a ritrovare, a riportare, diciamo così, nelle disponibilità del nostro Stato manufatti che erano stati, quindi opere, illegalmente e illecitamente trafugati nei sepolcri italiani, nell'Italia del Sud e nel Triveneto, e sono state quindi persino recuperate negli Stati Uniti. Come voi sapete, il furto di reperti, di opere d'arte, di tutto ciò che fa parte del patrimonio culturale del nostro paese è oggetto di grandissimi traffici, sui quali illecitamente, illegalmente, moltissimi personaggi in Italia e all'estero lucrano, e lucrano abbondantemente. Per dare l'importanza di questa operazione Augusto Imperatore, ricordiamo che alla conferenza stampa era presente anche l'ambasciatore degli Stati Uniti, David Thorne, quindi stiamo parlando di qualcosa di davvero importante. Dedico alcune due puntate, per la precisione, a questo tema, cominciando a parlarne con il comandante del gruppo tutela patrimonio archeologico della Guardia di Finanza, il capitano Massimo Rossi. Buongiorno capitano. Buongiorno a voi. Allora, io direi proprio di cominciare dal racconto di questa operazione. Che cosa avete recuperato? E ciò che più mi piace sapere, e credo di interpretare anche il desiderio dei nostri radioascoltatori, è come siete arrivati a questa operazione. Dunque, si è trattato di un'operazione posta in essere dal gruppo tutela patrimonio archeologico del nucleo di Polizia Tributaria di Roma, che ha consentito il recupero di oltre 1600 manufatti del passato, che ha visto operare in sinergia la Guardia di Finanza, le autorità statunitensi dell'Immigration Customs Enforcement dell'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, che le ha citato, e la Procura della Repubblica di Roma. L'indagine ha preso a brivio da una segnalazione di scavo clandestino operato nel Triveneto. Da quei siti della civiltà testina erano stati decontestualizzati oltre 300 opere ceramiche, poi fermate al confine con l'Austria, proprio mentre erano in procinto di essere trasferite illegalmente a Klagenfurt. Nel corso delle perquisizioni poste in essere nei confronti dell'organizzazione operante nel Triveneto era stata rinvenuta copiosa documentazione amministrativa, che ha poi consentito agli inquirenti di ricostruire l'intero sodalizio criminale operante sul territorio nazionale e in particolare nel Casertano. Ecco, vorrei chiederle questo, capitano. Il valore di questi manufatti, di queste opere in ceramica, di questi reperti archeologici, voi lo avete stimato o è difficile farlo? Beh, alcune cose hanno un valore incalcolabile. Parlando ecco del corredo funerario ecco rinvenuto nel corso dell'indagine negli Stati Uniti, è un corredo di VI secolo avanti Cristo, quindi insomma è facile così ecco dargli comunque un valore, ma attesa l'unicità di questa certo, sepoltura femminile, tra l'altro osco campana, sì, il valore è incalcolabile. Ecco, una cosa mi colpisce anche. Avete condotto la vostra operazione nell'Italia del Sud e nel Triveneto, ma a tirare le fila di questi scavi clandestini, tanto lo sappiamo che in Italia purtroppo ancora oggi gli scavi clandestini sono una maledetta urgenza, accadono in Campania, nella zona dell'Etruria, quindi nel Lazio, in Umbria, nelle Marche, ovunque. Ecco, attirare le file di questo scempio, no? Da un punto di vista, diciamo, dell'ambiente, della cultura e poi dell'illecito guadagno, ecco, chi è? Chi sono? La figura del tombarolo, un po' ottocentesca, in realtà non esiste più, adesso si affaccia prepotentemente alla manovalanza, se vogliamo, dei tombaroli, anche personaggi dell'est europeo che vengono sfruttati per le condizioni di indigenza, diciamo. Però c'è un'organizzazione ormai ecopiramidale, il cosiddetto collettore, che una volta era il mercante antiquario, ormai è stato sostituito da figure più importanti, così da indotto clandestino. Certamente, quindi questa figura del tombarolo, no? Che magari anche colpisce romantica, un po', ecco, il romanticismo, che non vorrei capire che cosa abbia di romantico, ma comunque, insomma, la piccola delinquenza, la delinquenza spicciola, quella che era considerata tale, aveva sempre questo alone di romanticismo, quasi come se delinquere e commettere questi piccoli reati che tali non sono portasse con sé un certo fascino. In America, perché, qual è il mercato di sbocco di questi beni, Capitano Rossi? Sì, devo tornare indietro per un attimo. Dunque, prego. Intanto, ecco, parlavamo del comune di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Sì. È proprio nell'agro di uno di questi comuni che viene attenzionato, come uso dire nel gergo poliziesco, certo, un gruppo di soggetti che aveva saccheggiato una serie di sepolcri arcaici nella necropoli locale Osco Campana e introdotto illecitamente negli Stati Uniti, dove alcuni appartenenti a questo sodalizio, si era appunto nel frattempo rassegnati, aveva posto così sul mercato clandestino uno di questi corredi funerari che appunto era stato trafugato da uno di questi sepolchi. E grazie proprio a questa sinergia collaborativa tra le autorità statunitensi che è stato possibile individuare sul mercato antiquario, proprio in procinto di essere venduto nuovamente, il pregiato corredo Osco Campano, certo, qui al Sesto, e riportarlo quindi in Italia, definitivamente restituito alla fruizione collettiva e museale. Certamente, ecco, ma appunto è soltanto gli Stati Uniti il mercato di sbocco di questa operazione o in realtà è un mercato mondiale? Direi che il mercato sinonipponico, tra l'altro quello più remunerativo per traffici del genere, diciamo che negli ultimi anni è più in auge. In auge degli altri. Rispetto alle mete transoceaniche, ecco, di cui si parlava magari qualche tempo fa. Certamente. Anche gli Emirati Arabi, perché no? Certo, anche perché disponibilità monetaria, esatto, e finanziaria, nonostante le recenti difficoltà di Abu Dhabi, sicuramente ci sono. Ecco, certamente, intanto certamente cominciamo a presentare il secondo ospite che ci accompagnerà anche domani, che è Zhao Cevoli, che è il direttore dell'Osservatorio Internazionale delle Arcomafie ed è anche presidente dell'Associazione Nazionale degli Archeologi. Buongiorno Cevoli. Buongiorno a lei. Allora, prima domanda: questa operazione vi ha colpito oppure siete purtroppo ormai assuefatti dagli scempi che avvengono nel nostro paese, quindi è l'ennesima dimostrazione da una parte della capacità di repressione dello Stato e dall'altra purtroppo della capacità di questi delinquenti di continuare a fare comunque spesso il bello e il cattivo tempo? Senz'altro ci ha colpiti l'operazione, come archeologi siamo rimasti colpiti dall'efficienza delle nostre forze dell'ordine. Noi in Italia siamo diventati un po' il riferimento anche all'estero per l'attività di recupero di opere d'arte, siamo il paese leader in questo settore grazie appunto alla capacità, al know-how che hanno acquisito le nostre forze dell'ordine. Addirittura ci troviamo spesso a operare come paese in contesti complicati, come per esempio in Iraq sono stati i nostri esperti a essere chiamati per lavorare al recupero delle opere sottratte al museo di Baghdad. Effettivamente nel passato abbiamo avuto anche ospite chi ha curato queste operazioni proprio qui nella mia trasmissione. Prego, quindi, dottor Cevoli. L'operazione della Guardia di Finanza è stata esemplare. Purtroppo in Italia si lavora bene in questo settore, cioè in quello della repressione, perché abbiamo appunto delle altissime competenze e professionalità. Non si fa altrettanto per prevenire, non si fa abbastanza per prevenire. Ecco, diciamolo, chiariamo bene questo punto. La prevenzione significa controllo del territorio, tutela del territorio, cioè quello che dovrebbe fare il Ministero per i Beni e Attività Culturali, che è titolare della tutela del patrimonio culturale in Italia. Certamente. Tra l'altro questo è uno dei punti fondamentali sancito addirittura dalla Costituzione all'articolo 9, la tutela del patrimonio culturale come una delle più alte finalità del nostro paese. Purtroppo abbiamo visto negli ultimi anni la struttura della tutela in Italia, la tutela del patrimonio culturale, indebolirsi complessivamente. Ecco, ci facciamo male con le nostre mani praticamente da soli. Guardi, se pensa semplicemente al fatto che, parliamo adesso di archeologia, c'è stato un concorso recentemente per assumere 30 archeologi al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. In pratica i concorsi e quindi i posti a disposizione negli ultimi 30 anni si contavano sulle dita di due mani, in pratica, e si sono presentati circa 5.500 concorrenti e di questo concorso saranno riassorbiti il Ministero nei prossimi anni molto lentamente, prima il 10 poi il 20%, e quindi non riusciranno a compensare neanche il turnover. Certamente. Questo significa che le soprintendenze si stanno indebolendo, abbiamo anche lì grandissime competenze che non saranno trasmesse alle successive generazioni di funzionari. Bene, io la interrompo qui, anzi male, Cevoli, la interrompo qui perché il racconto che ci sta facendo è interessante, lo riprendiamo domani. Io la ringrazio intanto per questo suo primo intervento, così come ringrazio il comandante Massimo Rossi della Guardia di Finanza, gruppo tutela del patrimonio archeologico, e Roberto Galullo nel ringraziare Carmelo Lauricella, e in studio Elisabetta Fusconi vi saluta e vi dà appuntamento a domani.